Un ciao da Laura a tutti gli amici di Radio Tutti Fermi. Oggi vi presentiamo la nostra nuova scoperta. Lui è Giovanni Caccamo. Ciao Laura. Senti, ti abbiamo sentito cantare per la prima volta al 50° anniversario della nostra scuola. Ma da quanto tempo studi canto? Studio ufficialmente da un anno con Elisa Turlà, Voicecraft, che è una tecnica americana. Però canto comunque da quando ero bambino. Ho capito. Il tuo nuovo disco che tu hai inciso, ce ne vuoi parlare? Si intitola Qualcosa sta cambiando, è un insieme di quattro cover che sono Moon Dance, Oggi sono io, Non me lo so spiegare ed ero contentissimo. E che cosa sta cambiando? Sta cambiando qualcosa nella mia vita e nella nostra vita. Essendo due amici possiamo vedere che nella nostra fase adolescenziale è proprio il cambiamento la caratteristica principale. Bene, e qual è la prima traccia che vuoi farci ascoltare? Andiamo in ordine di copertina. La prima è Moon Dance ed è una cover di Michael Bublé, riarrangiata dagli standard jazz americani. Well, it's a marvelous night for a moon dance, with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance, near the cover of October skies. And all the leaves on the trees are falling to the sound of the blizzard that blows. Now I'm trying to please to the calling, and all your hands in the place of the law. And all the night's magic seems to whisper, and I'll shed all the soft moonlight seems to shine in a blush. Could I do ever more moon dance with you, my love? Could I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can feel till the morning is gone, and I know now the time is just right. And turn into my arms you will run, and when you come my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come through there. There and then I will make you my home. And every time that I touch you, you just tremble inside. I know how much you want me, that you can hide. Can I have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come, and I know now the time is just right. And straight into my arms you will run, then when you come my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true. There and then I will make you my home. And there and then it all more moon dance with you. E questa era Moon Dance. Quali difficoltà hai trovato nell'interpretarla e cantarla? Beh, devo dire che non è stato facile, perché comunque è sempre un brano jazz e, come sappiamo, il jazz non ha degli standard di interpretazione o tecnici, si basa molto sugli stop time oppure sulle interpretazioni istantanee. Quindi è molto difficile affrontare e affermare il proprio stile. Bah, direi che ancora il percorso per avere un mio stile penso sia lungo, perché è il risultato di tanti anni di tecnica e lavoro. Invece la seconda traccia che possiamo ascoltare sul tuo disco è Oggi sono io. Ce ne vuoi parlare? È un brano di Alex Britti, scritto da lui, è stato reinterpretato anche da Mina. È un brano con difficoltà soprattutto tecniche, perché contiene sia toni molto bassi che toni molto alti. Va bene, allora buon ascolto, sono sicura che vi piacerà. E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire neanche come stai. Come stai bene con quei pantaloni neri, come stai bene oggi. Come non vorrei cadere in quei discorsi già sentiti mille volte, rovinare tutto. Come vorrei poter parlare senza preoccuparmi, senza quella sensazione che non mi fa dire che mi piaci per davvero, anche se non te l'ha detto. Perché squallido provarci solo per portarti a letto. E non me ne frega niente se dovrò aspettare ancora per parlarti finalmente, dirti solo una parola. Ma dolce più che posso, come il mare e come il sesso, finalmente mi presento. Questa notte è già finita, non so ancora come sei. Non so neanche se ti rivedrò, resterà soltanto un'altra inutile occasione. E domani poi ti rivedo ancora. E mi piaci per davvero, anche se non te l'ho detto. Perché è squallido provarci solo per portarti a letto. E non me ne frega niente se non è successo ancora. Aspetterò quando è il momento e non sarà una volta sola. Ma spero più che posso che non sia soltanto sesso, e stavolta lo pretendo. Preferisco stare qui da solo che con una finta compagnia. E se davvero prenderò il volo, aspetterò l'amore, amore sia. E non so se sarai tu davvero, forse sei solo un'illusione. Però stasera mi rilasso e penso a te e scrivo una canzone. E dolce più che posso, come il mare, come il sesso. Questa volta lo pretendo. Perché oggi sono io, oggi sono io. Vi è piaciuta? Sicuramente sì. Comunque, volevo farti un'altra domanda. Quando canti, cosa senti dentro? Cioè, cosa vuoi trasmettere? Beh, una domanda tosta. Comunque, in fondo, forse canto per me, per le mie emozioni. Ogni volta è sempre un'emozione diversa. Forse è proprio questo quello che arriva. Il fatto che magari non ci sto molto a pensare, a dire ho 100 persone davanti, 300 persone o 10. Magari canto per me e a quanto pare qualcosa arriva. Comunque è una grandissima emozione avvertire un riscontro da parte del pubblico. Le ultime due tracce del tuo disco sono due canzoni di Tiziano Ferro. È un cantante che ti piace particolarmente? Beh, sì, trovo comunque un'affinità dal punto di vista sia dello stile, quindi dell'interpretazione, anche dal punto di vista tecnico, penso sia un cantante molto valido. Va bene, salutiamo gli amici di Radio Tutti Fermi. Nanni, hai qualche secondo, quindi se vuoi dire qualcosa. Beh, sì, colgo l'occasione per salutare e ringraziare tutte le persone che mi ascoltano. Grazie a te Laura e a tutte le mie amiche e amici. Grazie. Grazie a te. Un po' mi manca l'aria che tirava, o semplicemente la tua bianca schiena. Na na na na na na na na. E quell'orologio non girava, stava fermo sempre da mattino a sera. Come me lui ti fissava. Io non piango mai per te, non farò niente di simile, no mai. No no no no no no no, no. Sì, lo ammetto, un po' ti penso, ma mi scanso, non mi tocchi più. Solo che pensavo quanto è inutile far medicare, credere di stare bene quando inverno è te. Do le tue mani calde, non mi abbracci e mi ripeti che son grande. Mi ricordi che rivivo in tante cose. Na na na na na na. Case, libri, auto, viaggi, fuori di giornale, che anche se non valgo niente perlomeno a te ti permetto di sognare. E se voglia di lasciarti camminare, scusa sai non ti vorrei mai disturbare, ma vuoi dirmi come questo può finire? Non me lo so spiegare, non me lo so spiegare. Scusa, no, no. Solo che pensavo quanto è inutile far medicare, credere di stare bene quando inverno è te. Togli le tue mani calde, non mi abbracci e mi ripeti che sono grande. Mi ricordi che rivivo in tante cose. Na na na na na, na. Case, libri, auto, viaggi, fogli di giornale, che anche se non valgo niente. Far meditare, credere di stare bene quando è vero in te. Togli le tue mani calde, non mi abbracci e mi ripeti che son grande. Mi ricordi che rivivo in tante cose. Na na na na na na. Case, libri, auto, viaggi, fogli di giornale, che anche se non valgo niente per problema a te ti permetto di sognare. Se voglia di lasciarti camminare, scusa. cosa sai, non ti vorrei mai disturbare, ma vuoi dirmi come questo può finire? Ma vuoi dirmi come questo può finire? Sì, ma vuoi dirmi come questo può finire? Dentro urlavo Dio ancora, ancora, ancora.